Belluno ha fatto il bis. Per il secondo anno consecutivo ha conquistato la vetta della classifica stilata da Lega Ambiente in collaborazione con il Sole 24 Ore per il miglior ecosistema urbano. Solo nel 2005 stava al 42esimo posto, poi ha bruciato le tappe. Merito, dice il sindaco Antonio Prade, delle politiche avviate ma anche del forte senso civico dei cittadini. Come già nel 2007, Belluno, fra le tante voci considerate, è premiata più dalla media che da singole eccellenze, anche se primeggia stavolta come capoluogo col minor quantitativo di rifiuti prodotto per abitante. Buoni i risultati ottenuti sul fronte delle piste ciclabili, della mobilità urbana compatibile, della raccolta differenziata dei rifiuti, della qualità dell'aria, della pianificazione di un ambiente generalmente migliore. Oggi, nel capoluogo dolomitico, il sindaco riceve da Lega Ambiente il premio per la vittoria conseguita nel 2007 e sarà sicuramente ben felice di aprire l'agenda per fissare un analogo appuntamento per il 2009, visto che la città vincente ospita per tradizione la presentazione del rapporto dell'anno successivo. Claudio Pasqualetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Belluno.